Questo è un audiolibro realizzato per il progetto LibriVox. Libera i libri con la tua voce. Questo audiolibro è rilasciato sotto la licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale, condividi allo stesso modo. Audiolibro registrato da Marzia, marzia@cumaves.it. Che cosa è la mafia? Di Gaetano Mosca. Capitolo primo. A proposito del recente ed ormai celebre processo che si è svolto a Milano, molto si è parlato e si è scritto della mafia, argomento vecchio che di tanto in tanto acquista in Italia un interesse nuovo ed un'attualità nuova. È strano intanto che si debba notare come coloro che discorrono e scrivono di mafia in tutta Italia, ma specialmente in quella settentrionale, ancora oggi raramente abbiano un concetto preciso ed esatto della cosa o delle cose che con la parola mafia vogliano indicare. Veramente sarebbe toccato ai siciliani stessi di togliere gli equivoci e di stabilire il vero valore del nuovo vocabolo da essi introdotto nel dizionario nazionale. Ma per i siciliani quel complesso di fenomeni sociali, di anomalie della loro regione, che essi esprimono sinteticamente quando dicono mafia, riesce così familiare che quasi non immaginano che altri possano sentire bisogno di una dettagliata spiegazione, di un commento che fissi e chiarisca i vari significati dell'espressione, che i nativi dell'isola, per cella lunga consuetudine, facilmente distinguono. Dunque, dovendosi anzitutto eliminare questa poca precisione nel nostro linguaggio parlato, occorre rilevare che i siciliani col vocabolo mafia intendono e vogliono significare due fatti, due fenomeni sociali che, quantunque abbiano fra di loro stretti rapporti, pure sono suscettibili di venire separatamente analizzati. La mafia, o meglio lo spirito di mafia, è una maniera di sentire che, come la superbia, come l'orgoglio, come la prepotenza, rende necessaria una certa linea di condotta in un dato ordine di rapporti sociali. E con la stessa parola viene indicato in Sicilia non uno speciale sodalizio, ma il complesso di tante piccole associazioni che si propongono scopi vari, i quali però quasi sempre sono tali da fare rasentare ai membri dell'associazione stessa il codice penale e qualche volta sono veramente delittuosi.